Quando incontri una persona che sta in mezzo tra te e il tuo obiettivo, è come se ci fosse un ostacolo che devi superare, ma non hai gli strumenti per farlo. Come se ti trovassi davanti ad un settimo grado di una parete di roccia e tu non avessi assolutamente idea di cosa sia l'arrampicata libera. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 12 minuti, quasi 13. Questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Da bambini li chiamiamo mostri, da grandi li chiamiamo tabù, ma parliamo sempre della stessa cosa. Sono luoghi, situazioni, persone che chissà per quale ragione profonda ci fanno paura e quindi li teniamo ben lontani da noi. Quando ero piccolo avevo paura del buio, come tutti i bambini. Ma non era il buio in generale che mi spaventava, era più il buio che stava sotto il mio letto, quello che rimaneva nascosto tra il pavimento e il materasso. Quello che veniva coperto dal lembo di piumone che pendeva prima di essere rimboccato da mia madre. Il buio, quello negli angoli della stanza, oppure quello dietro alle ante degli armadi, ecco, quel buio lì mi preoccupava di meno. Era proprio il buio sotto il letto che mi terrorizzava. E sapevo cosa ci fosse là sotto, eh? Sotto il mio letto c'erano due scatole piene di vecchi dischi dei miei genitori, che erano state parcheggiati là. Le vedevo ogni volta che mi ginginocchiavo per recuperare la pallina da tennis con cui giocavo. Quindi avevo controllato che cosa c'era là sotto, più di una volta. Solo che l'avevo fatto di giorno, mai di notte. E di giorno al buio non c'era, ovviamente, il buio arrivava con la notte e si portava con sé tutto quello che si nascondeva sotto il mio letto. Sono passati molti anni e ora credo di aver capito che cosa si nascondesse in quel buio là. Era un buco nero e gigante. Profondo quanto un pozzo, di quelli che non vedi mai il fondo, quindi ci butto un sasso per sentire quando fa ciuff nell'acqua. E secondo me quel buco là sotto c'è ancora. È il posto buio in cui si nascondono tutti i miei mostri, quelli di allora e quelli di oggi. Uno dei miei mostri più cattivi si chiamava Sebastiano. Giocava a pallone con me, ma era molto più forte di me. E mi faceva talmente paura incontrarlo su un campo che cercavo sempre un modo per giocare insieme a lui. Se invece ci finivo contro, piuttosto giocavo in porta. Uno dei miei mostri di quell'epoca era l'ora di musica alle medie. Era l'ora in cui bisognava suonare la diamonica a bocca davanti a tutti. E a me, per la paura, tremavano le mani. E mi vergognavo da morire. Ma in quel buco ci sono anche i miei fantasmi di oggi. Tutti i capi a cui non ho mai avuto il coraggio di dire quello che realmente pensavo. Parenti che mi hanno sempre messo in soggezione. Le vertigini. I grandi classici, quelli che non ho mai letto, però fanno bella mostra sui miei scaffali. Ma anche gli ex fidanzati delle donne che ho amato e che mi facevano paura perché mi sembravano sempre meglio di me. Tutti quanti abbiamo dei mostri da affrontare. C'è chi si infila sotto il letto e li tira fuori da quel buco nero e chi invece ce li lascia e continua ad averne paura. E voi? Quali sono i vostri mostri? 800240024 349-238-6666. Date una faccia ai vostri mostri, tirateli fuori. Provate a pensare a quali erano quelli di una volta, che erano le paure dell'infanzia, che erano quei mostri che prendevano vita sullo scaffale di fronte a voi o sul comodino del letto oppure dietro alla porta dell'armadio. Ma anche invece le paure poi che sono arrivate con il passare del tempo, che magari non avete mai affrontato, che era il professore di matematica o era il preside del vostro liceo. Magari c'è qualcuno per cui ci sono questi mostri giganteschi che invece vi perseguitano per tutta la vita, no? Tipo il sesso, ad esempio. Quella roba di cui tutti parlano, ma che qualcuno magari vede veramente come un mostro. Oppure poi tutti gli ex dei vostri attuali o ex fidanzati o mogli, no? Quelli di cui avete sentito parlare, che sembrano sempre, nei racconti, sembrano sempre più belli, sempre più precisi, sempre più giusti di voi. Ecco, date una faccia ai vostri mostri, è il momento per farlo. 800240024 349-238-6666. Virginia ha un mostro, il suo mostro si chiama Lorenzo, non so chi sia, ma lei dice quante volte vorrei parlargli e quante volte non ce la faccio. Francesca invece ha un mostro piuttosto banale, è piccolo, infame, scuro e non se ne va. Non c'è luce che tenga, se lo illumina è ancora peggio. Non è niente che sbavi sotto il letto, piuttosto sopra, il mio mostro è il mostro per antonomasia, è il ragno. 800240024 349-238-6666. Guardateli in faccia e date una faccia, un volto e un nome ai vostri mostri. Il mio mostro si chiamava Italo. Quando incontri una persona che sta in mezzo, tra te e l'obiettivo del tuo amore in questo caso, è come se ci fosse un ostacolo che devi superare, ma non hai gli strumenti per farlo. È proprio come se ti trovassi davanti ad un settimo grado di una parete di roccia, ma tu non avessi idea di che cosa sia l'arrampicata libera. Dopo aver ricevuto la mail di Italo, il fidanzato di Nathalie, ho deciso che accettare di incontrarlo era la cosa migliore. Non solo per cercare di aggirare l'ostacolo, ma per conoscerlo. Dicono che i nostri fantasmi fanno molta più paura se non li abbiamo mai visti. Sentire dei racconti evocati da altri, oppure i rumori delle catene, quelle strisciate ai piani superiori del castello in cui noi stiamo passando la notte, sono cose che terrorizzano molto di più del faccia a faccia. Credo che abbia a che fare con l'immaginazione, con il fatto che la nostra testa è molto più brava di qualsiasi regista horror a creare situazioni di terrore. Per il semplice fatto che, a differenza del regista horror, conosce perfettamente tutti i nostri punti deboli. E quindi sa che quell'ombra che spunta là dietro la porta del bagno, oppure il rumore che viene dal legno del pavimento, nascondono mostri terribili, che crescono nella nostra testa. C'è un film magnifico di un paio di anni fa, che è stato tratto da un libro americano per bambini, un libro degli anni 60, che si intitola Where the Wild Things Are, che in italiano è stato tradotto con Nel paese dei mostri selvaggi. La storia è proprio quella dei mostri che ci creiamo nella nostra testa, di quanto siano orribili, ma in fondo simili a noi, proprio perché nascono da lì. È la storia di Max, un bambino travestito con un costume da lupo, che è intento a creare il caos in casa sua, rincorrendo il cane con una forchetta. Dopo che la madre lo ha definito proprio un mostro selvaggio e lui le ha risposto che l'avrebbe mangiata, Max viene spedito in castigo, senza cena, nella sua camera. E lì, in camera sua, tra le mura della stanza inizia a crescere una foresta. È talmente fitta e lussureggiante che fa scomparire le pareti. Max inizia ad esplorare il luogo e trova una barca, con la quale, dopo averci inciso sopra il suo nome, parte per un viaggio che sembra durare mesi, se non degli anni interi. Arriva nel paese dei mostri selvaggi e lì incontra delle creature strane, minacciose. Sono giganti, pelose, ma Max li conquista fissandoli intensamente negli occhi. Proclamato il mostro più selvaggio di tutti, Max diventa il loro re ed ha inizio ad una specie di rituale selvaggio, un grande ballo di gruppo. Poco dopo, però, comincia a sentire la mancanza di casa e decide, contro il volere degli altri mostri, di ritornare. Quando arriva nella sua stanza, trova la cena ad aspettarlo, è ancora calda. 3 anni fa, Spike Jonze ne ha fatto un film splendido che si intitolava Nel paese delle creature selvagge. Sono Max. Sono un esploratore. Io viaggio per mare. Un tempo viaggiavo in aereo. Naturalmente non hai casa né famiglia. Beh, in realtà ne avevo una, ma... Te la sei mangiata? No, non intendo mangiare nessuno. Mi è tornato in mente proprio ieri sera, mentre in auto andavo verso Corso Garibaldi, dove avevo appuntamento con il mio peggior mostro, Italo. Sono arrivato a Moscova credendo di trovare una foresta spaventosa. Ho aspettato 10 minuti e invece di un mostro peloso, con le zanne, è arrivato Italo. Italo è un agente immobiliare. Anzi, è un po' di più. È un imprenditore edile che vende case. Lui si è definito direttamente dal produttore al consumatore. La serata è andata esattamente nella direzione opposta a quella che mi immaginavo. Innanzitutto io non sapevo come riconoscerlo, ma non ho dovuto fare nessuno sforzo, perché mi ha riconosciuto lui. Ho visto sto tizio che mi puntava venendo dritto verso di me, con un sorriso grande così. Era vestito con un giubbotto da vela, aveva i capelli biondi fino al collo, la barba e una gran faccia da scemo. Mi ha stretto la mano come se dovesse vendermi una casa. Mi ha detto che era un piacere e siamo entrati in vineria. Già ero a disagio, di mio. In più la sua affabilità e la vineria, dove non potevo nemmeno bere una coca, stavano iniziando ad innervosirmi. Voglio dire, in fondo eravamo lì per parlare della sua ragazza di cui io mi ero innamorato, mica per organizzarci un weekend tra amici. Insomma, proprio non mi spiegavo quel clima amichevole, fino a che Italo non ha iniziato a parlare sul serio e mi ha detto questa frase: Matteo, io ti ascolto da sempre. Che cosa può esserci di più imbarazzante di una roba così? Cioè, incontrare una persona con cui devi chiarire qualcosa di molto delicato, di molto importante, che si mette a farti complimenti per quello che fai. Cioè, sarebbe come se prima di un derby Zanetti, invece che fare il riscaldamento, si mettesse a parlare con Gattuso per dirgli quanto sono bravi i medici di Milan Lab. Italo ha iniziato dal principio, dal programma in cui perdevo la memoria, che lui lo sentiva in podcast prima degli appuntamenti, che addirittura una volta aveva finto un'amnesia per far saltare un affare che non voleva più chiudere. È tutto un fiorire di no, sei un grande. Ah, poi quando hai venduto tutto, ma sai quante volte ho pensato anch'io di vendere tutto e andarmene, ma poi sai com'è, non l'ho fatto. E io annuivo e bevevo uno spritz, che era la cosa più leggera che avevo trovato. A un certo punto, il colpo di teatro. Lui ha tirato fuori un foglietto scritto a mano e mi ha detto: guarda, questa è la mia lista di desideri. Lì ho ordinato un altro spritz, doppio però. Insomma, Italo era un imbecille e io non sapevo come gestirlo. Mi pareva completamente fuori controllo. Ho iniziato anche a pensare che una persona che sta con un imbecille, forse anche lei non è che è proprio candidata al premio Nobel, ma ho cancellato quest'idea pensando che in fondo i legami tra le persone sono governati da dinamiche profonde e misteriose. Insomma, il mio paese delle creature selvagge non era solo meno spaventoso di quanto immaginassi, ma sembrava più un film dei Vanzina che uno di Dario Argento. Quando ha finito di leggermi la sua lista, io ho iniziato a parlare di Natalie. Gli ho detto che la situazione mi dispiaceva moltissimo, ma che io provavo una cosa per lei che era più forte di me e non potevo nascondere. Lui non ha mai cambiato espressione. Beveva un martini bianco e sorrideva e annuiva. Quando io ho finito, lui ha bevuto il suo martini, l'ha finito, e mi ha detto che potevo stare tranquillo. Vedi, la sua storia non andava molto bene, che alla fine non sapeva nemmeno lui perché continuavano ad andare avanti. Stava proseguendo per inerzia. E soprattutto sapere che Natalie finiva in buone mani lo lasciava tranquillo. E più andava avanti e più mi sembrava un cretino. Però insieme a questo sentivo un senso di dolcezza che mi investiva. Come quando ti lasci scivolare nella vasca da bagno che hai riempito d'acqua calda e i muscoli si rilassano e il respiro si fa più morbido. Insomma, era un cretino, ma me la stavo portando a casa. Se non fossimo noi due, saremmo altri due. Felici come valigie cadute da un aereo di linea, felici come animali d'appartamento. Il mio mostro era il mio professore di elettronica, non so perché, anche se capivo molto la sua materia, l'interrogazione non riuscivo ad aprire bocca. Da bambino al buio, adesso continuo a pensare, ma proprio non mi viene in mente nulla. Non ho problemi con nessuno, conduco una vita trasparente e dignitosa. Amo mia moglie, mio figlio di 6 mesi. Forse l'unica paura che ho è legata al futuro, ma questa non vale, ce l'abbiamo tutti, no? Infatti, Luca Damanto, ma questa non vale. Il mio mostro è il maschio poligamo che è dentro di me, Adriano da Roma. Giuseppe scrive: il mio mostro è Andrea, il compagno della mia ex moglie. Vive e dorme anche con mia figlia. Succede così, quando ci si lascia e ci si rifidanza. Ho paura di avere un figlio, mi dice Ornella. Mi terrorizza e mi angoscia solo l'idea. Mi sento pure in colpa. E poi, ancora adesso non metto giù le gambe dal letto di sera e ho 40 anni. Non so però che mostro ci sia sotto il letto. Guarda, credo che non lo sappiamo, nessuno lo sappia. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto non so dove siamo, però so più o meno in che ora siamo, in che parte della giornata siamo. Siamo al tramonto. Quello che si vede è un bel sole arancione che sta calando. Oddio, aspetta, ho detto tramonto, però potrebbe anche essere un'alba, effettivamente. C'è ragione pure Paolino che mi guarda. Però no, è troppo arancione per essere un'alba. È chiaramente un tramonto. È un tramonto, ok? Siamo in montagna, c'è un... o in collina, si vedono dei picchi di colline in fondo, sulla destra. C'è qualche rimasuglio di nuvola, però è più roba da vapore, da condensa, che non da cattivo tempo. Ci sono delle piante senza foglie, quindi probabilmente autunno. Potrebbe essere un sole che tramonta in una di queste giornate di autunno. Credo le ultime. Marco Ricci, 48 anni, la località è Peach Spring, Arizona. La foto è stata scattata mentre ero in macchina, mi sono fermato a guardare il tramonto, io sono qui. Allora, quindi era il tramonto ed era... l'avrei detto che era una roba tipo la California, però mi sembrava veramente di fare quello che spara boiate, che già, insomma, già capita e quindi no, non volevo andare oltre. Andiamo ai messaggi. Gabriele, il mio mostro, mi capita tutte le volte che cambia il direttore della mia banca. Raffaele, io ad esempio soffro leggermente di vertigini, ma ogni volta che mi trovo ad un'altezza dove inizio ad avere paura, mi fermo e la guardo in faccia la paura. Prendo coraggio e aspetto finché l'adrenalina passa, finché non ho più paura. Il mio mostro era il professor Perini, storia e filosofia delle superiori. Sogno ancora di essere interrogata, che incubo Alice. Poi dicono, ci sono ascoltatori che hanno avuto un incontro simile al mio, a quello di Italo. Il mio mostro è mio zio, è talmente preciso. Ok, questo ce l'abbiamo. Anch'io ho avuto un incontro del genere. Alla fine Antonio mi disse: Antò, non so cazzi tua, non sai in che guai ti sei cacciato. E poi non dirmi che non te l'avevo detto. Quante volte ho pensato, Antonio aveva ragione. E poi mi è arrivato questo messaggio. Il mio mostro è mio zio, è talmente preciso e pignolo che mi mette in soggezione. Ho il terrore di fargli vedere la mia pagella, anche se vado bene a scuola. Comunque gli voglio bene. Miki, pronto Miki? Ciao Matteo. Ciao, Miki sta per Michela, ovviamente. Sì. Quanti anni hai? 16. E che scuola fai, Michela? Faccio terzo superiore all'istituto Regina Margherita, scienze sociali. Di Torino, ovviamente. Sì. Un pochettino si sente che sei di Torino, Michela. Ah sì. Senti, che cosa si studia nella tua scuola? Allora, praticamente come socio psicopedagogico, solo che non c'è il latino e c'è la lingua straniera. Cioè che? Che è francese. Oltre all'inglese. Oltre all'inglese, sì. Quindi hai francese e inglese, due ne hai, non più di queste. Sì, sì. Ok, senti, Michela, mi dici perché tuo zio è così un mostro ai tuoi occhi? Ma non lo so, perché è sempre preciso, sempre mi mette veramente in soggezione certe volte. Ma perché quanti anni ha tuo zio? 43. Ed è 43, fa l'ingegnere, è veramente maniacale. Vabbè, ho capito, però di solito si fa paura a far vedere la pagella ai propri genitori, non ai propri zii. No, invece i miei genitori non ho paura, a mio zio ho più paura perché per esempio di matematica riesco ad avere 6. E lui è, lui è ingegnere? Però, lui dice però potresti migliorare, queste cose qua. Sì, ho capito, ma tu cosa gli dici quando lui ti dice potresti migliorare? Tipo fatti tuoi, non gliel'hai mai detto? No, no, no, perché lo zio. Assolutamente no. Ah, ok, perché potrebbe partire un ceffone. Ah, hai 16 anni ormai, Michela. Sì, faglielo capire. Anni. Faglielo capire. Vabbè. Senti, a Torino oggi ci sono stati disordini per la scuola come sono stati a Roma oppure siete stati buoni voi? Allora, ormai a Torino, a scuola da me, c'è una manifestazione ogni 3 giorni oppure un'occupazione. Quindi, partecipo ad alcune, non a tutte. Cioè, e come le scegli? Oggi io sono... dipende anche da quante persone entrano a scuola. Cioè, tipo, oggi c'era qualcosa? Oggi io sono andata a scuola perché c'era tanta gente e dovevo essere interrogata. Di che cosa? E quindi sono andata. È francese. Com'è andata? Ho preso 6 al 7. No, non è male 6 al 7 perché comunque con poco arrivi al 7. Sì, per la anche media. Perché francese non vado molto bene, quindi va molto bene 6 al 7. Ok, senti, ma la tua scuola è occupata di fisso, è autogestita oppure no? Saltuariamente ci sono delle manifestazioni? No. C'è, per esempio ieri c'è stata occupazione, però solamente ieri. Oggi c'era manifestazione, però solamente oggi. Domani la scuola è regolare, poi mi sembra la prossima settimana ci sono altre manifestazioni. Senti, ma tu come la vedi questa cosa? Ti sembra una cosa sensata oppure ti dà fastidio perché non riesci a fare le lezioni? No, mi sembra comunque una cosa abbastanza sensata, solo che ovviamente non posso saltare ogni settimana un giorno di scuola o 2 giorni di scuola. Ok, ok. Michela, guarda, ti ringrazio moltissimo, salutami tuo zio e ti lascio andare a studiare. Okay, ciao, grazie. Buona giornata. Ciao. Andiamo a Elisa, fantastico. Elisa ci ha mandato questo messaggio. Ancora adesso non riesco a mettere giù le gambe dal letto di sera e ho 40 anni. Pronto Elisa? Ciao Matteo. Ma è vero? Ma è vero, ma oddio, se salgo sul letto faccio un salto da 1 metro e se scendo faccio una corsa. Ma scusami, ma tu sai che cosa c'è sotto il letto? Però ovviamente non c'è niente sotto il letto, non c'è niente, non lascio neanche le scarpe. Perché si sa mai che magari una volta ti inchini, le vedi e sei terrorizzata. Pensa, è lo scherzo più grosso che mi fanno le mie bambine. E quando tu hai delle figlie quindi, Elisa? Sì, due. E come gliela giustifichi questa cosa? Come gliela racconti? Come glielo dici che la mamma ha paura di me? Glielo dico. Elisa, grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo da Luca da Venezia. Pronto, Luca? Ciao, Matteo, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Senti, raccontami quali sono i tuoi buchi neri, i tuoi mostri, che non sono male effettivamente. Beh, fin da piccolo, mentre guardavo mia madre cambiare, avevo difficoltà a capire quale fosse la costante. Stiamo parlando di cambiare marcia proprio. Cambiare marcia. Tra la prima e la seconda. E la terza e la quarta e via così. No, per far capire, certo, tutte le altre, non esatto. Solo la prima e la seconda. Ok, però quella è passata adesso, Luca, c'hai la patente? Sì. Sì, ho la patente, faccio 60-70 mila chilometri e ho il cambio automatico. Benissimo, perfetto. Come si combatte la paura? Col cambio automatico. Col cambio automatico. E l'altra invece? L'altra era fin da piccolo capire quando fosse il momento di baciare, mentre vedevo i film, quelli un po' più romantici così. Vabbè, però, scusami, quando vedevi i film ti veniva questo dubbio, poi il dubbio però ti veniva quando eri davanti a una donna, immagino. Sì, sono timido, per cui credo di averne persi molti di baci che magari ci stavano e per... Ah, perché ancora non l'hai capito? Beh, diciamo che ho risolto, mi sono sposato quando è stato chiaro, però... Cioè, diciamo, tu sei passato dal non so come baciarla alla sposo. Esatto, esattamente, era palese, è stato richiesto, per cui ho risolto così, insomma. Luca, grazie mille. Ciao, buona giornata. Te, l'ultima telefonata di oggi, andiamo a Bari da Ornella. Pronto, Ornella? Ciao, come stai? Bene. Senti, tu hai paura di avere un figlio? Sì. Ma quanti anni hai, Ornella? Ho 30 anni, nonché un matrimonio fallito alle spalle. Vabbè, però adesso hai i fidanzati che pressano? No, però avevo suoceri che pressavano. E qui, però diciamo, quello è andato? Sì. E la paura, di solito dicono che la paura passa quando arriva l'uomo giusto. Ma no, Ornella, sì, proprio può essere, ma sono, sai, quelle paure psicologiche che tu hai perché per cose magari vissute o che vedi. Non hai mai provato a affrontarla in nessun modo? Beh, sì, guarda, una volta mio marito è riuscito a convincermi, erano usati i contraccettivi. Sono stata assalita da un'angoscia mostruosa. Ornella, grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Grazie a lei, grazie a Paolino Corleoni, a Viola, la nostra stagista, e grazie a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?